snello muove la testa e con l'ale s'applaude, ne frode teme, ma cerca l'ode. Come in giostro baron voglia mostrando e facendosi bello per sua attenzion. Volage falco pensiero, poi torna alla Gione, e di tue pugne il disiato vampo recane in già punta in ciel gli occhi al regale, già spiega il male, già parte il ratto, quel sel c'è di fromba e piomba, non soffra più a colomba. Ma su destro